Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanki schei? 24 mattino. Sono le 7:19 minuti, cari ascoltatori, care ascoltatrici, e buon 8 marzo, così l'abbiamo messa via e a lei. Allora, siamo qui nello spazio dedicato alla lettura dei giornali, è la rassegna stampa di 24 mattino ed è tutto pronto. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. 8 marzo per l'appunto, mercoledì, l'apertura del Sole 24 Ore, Fiat Chrysler apre a Volkswagen e punta su Pomigliano, questo è il titolo principale. Nello stabilimento campano i modelli Alfa, via la Panda dal 2019, le strategie di Fiat Chrysler. Poi c'è questa apertura che approfondiremo tra poco, signori, il titolone dei giornali, Corriere della Sera, abbiamo sentito, la CIA usa le TV per spiare. Il Messaggero, spiati dalla CIA con la TV. Io non può neanche guardare la TV in pace, sembra. Taci, la TV ti ascolta. Questo è il titolo del giorno, abbastanza... Con la foto di Assange, no? Colui che ha dato il via a Wikileaks, abbastanza inquietante, insomma, come titolo. Guardate la TV tranquilli se volete, però questo è il mio consiglio spassionato, ma come sempre sbaglierò. Repubblica, voucher, pronte le nuove regole, Poletti, bonus alle famiglie povere, è il titolo di prima pagina, mentre La Stampa mette in primo piano l'Ungheria, migranti in cella, l'ultima sfida dell'Ungheria. E poi ovviamente c'è anche l'8 marzo che vede l'Unità e il Manifesto in prima linea. L'8 marzo, questo è il titolo dell'Unità, oggi in tutto il mondo lo sciopero delle donne per i diritti contro la violenza di genere. Il Manifesto titola Libere tutte, donne in piazza in 48 paesi per lo sciopero globale. Come dire... Lievemente irriverente è, dall'altra parte, sempre sull'8 marzo, il titolo di Libero. Il titolo è questo: più patate, meno mimose. Titolo di prima pagina. Allora, partiamo dalla CIA. Vediamo di approfondirla allora questa notizia della CIA. La CIA che ci spia, come giustamente scrive in terza pagina della Stampa Iena. Il graffio di Iena è rivelazioni, finalmente una notizia incredibile, la CIA ci spia. Allora, Wikileaks ha rilasciato 8.761 file che, leggo dall'articolo di Guido Limpio, pagina 2 del Corriere della Sera, rivelerebbero incredibili tecniche di spionaggio messe in atto dalla CIA, compresa una trovata che qualcuno può sembrare una stramberia. Grazie alla cyber tecnologia, l'agenzia è in grado di usare come microfono d'ascolto le smart TV Samsung destinate in qualsiasi casa. La Samsung, secondo me, ringrazia per la pubblicità non richiesta. Questo ovviamente apre mille strade, visto che oggi un gran numero di soggetti che arredano le nostre abitazioni sono legati alla rete internet. Dunque esistono tante porte dalle quali gli intrusi possono infilarsi per sorvegliare. Wikileaks, presentando la prima puntata Vault 7, ribattezzata Anno Zero, ha annunciato che altre rivelazioni seguiranno nei prossimi giorni. Un fiume impetuoso che potrebbe avere ripercussioni visti i contenuti. Uno. Col programma Weeping Angel, elaborato dagli americani coi britannici, le TV sono messe in posizione spenta e diventano sistemi di ascolto a distanza. 2. Possibilità di controllo remoto, sempre per l'ascolto, di qualsiasi telefonino dell'ultima generazione. 3. Presenza di un centro CIA nel consolato americano a Francoforte che colleziona le informazioni carpite in Europa, Medio Oriente e Africa. 4. Possibilità di intervenire su centraline che governano vetture e grossi mezzi di trasporto come i TIR. Camionisti! Attenti! 5. Divisione speciale nel quartier generale di Langley, Virginia, che sviluppa virus. 6. Possibilità di bucare sistemi criptati di WhatsApp o Telegram. 7. Umbrage, un gigantesco database raccolto dagli americani contenente malware, cioè software cattivo, e altri trucchi utilizzati dai pirati in tutto il mondo, compresi i russi. Per carità, non è che la mia enfasi vuole sminuire o ironizzare, però ecco, io guarderò la TV tranquillo, cioè se mi spiano, non lo so, vedranno che berrò una birra, va bene, cioè insomma sentiranno un po' ronfare e russare davanti alla TV, amen. Però capisco che in realtà è una questione legata alla tecnologia, che è un'arma a doppio taglio, nel senso che è un'arma che un qualcosa che ci fa progredire, ma chiaramente ci fa anche essere così trasparenti. Vabbè, vi segnalo Umberto Rapetto sul Messaggero a questo proposito: dal freezer ai computer così diventiamo prede. Dal freezer ai computer. Tutto ciò che è tecnologico e connesso a internet ci frega. Questo è. O è un'arma a doppio taglio. Allora, signori, lasciamo la CIA. Veniamo alle cose più prosaiche e legate ai soldi. Soldi, soldi, come spesso mi piace citare come filone comune. Il contrappasso per l'ex PM Ingroia. Antonio Ingroia, ve lo ricordate, colui che per anni è stato PM a Palermo, la trattativa Stato-mafia, poi si è buttato in politica, una parentesi infelice, poi ha lasciato la toga, adesso fa l'avvocato, ha fatto per un certo periodo anche il dirigente in Sicilia, e qui sorgono i problemi. Antonio Ingroia, ora accusato di peculato, indagato di peculato, per alcune spese pazze che gli sono contestate dalla Procura di Palermo, tra l'altro quella stessa procura in cui lui ha lavorato per anni. Hotel a 5 stelle, maxi stipendio, indagato Ingroia. Salvo Palazzolo, pagina 9 di Repubblica, nella sua nuova vita da manager della regione siciliana per i servizi informatici, dormiva in alberghi a 5 stelle, come il Villa Igea, storica residenza della Belle Époque, scelta da tanti sovrani in Sicilia. Gli contestano l'accusa di peculato, 30.000 euro per alberghi, ma anche pranzi firmati dai migliori chef siciliani. Questa è la contestazione della procura diretta da Francesco Lovoi contro l'avvocato Ingroia, che si difende. Una breve intervista a Repubblica: non ho nulla di cui pentirmi, quei rimborsi spese sono un mio diritto. Quando ho sforato ho subito pagato di tasca mia la differenza, e presto depositerò una memoria alla procura con cifre che mi vengono contestate e che non sono corrette. L'accusa si fonda sulla norma del 2006 abrogata nel 2008, e qui entriamo insomma nei cavilli burocratici, al di là della difesa che lui farà come legittima e forse riuscirà a rintuzzare tutte le accuse. Dice: hotel a 5 stelle, ne ho tutto il diritto per l'incarico dirigenziale che svolgo. Ieri sera ho anche intravisto un altro rappresentante delle istituzioni cittadine nel mio stesso albergo, pure lui in trasferta a Palermo. E così Ingroia, come dire, attenzione che faccio nomi. Rimborsi gonfiati, Ingroia indagato. Anche il Corriere dedica una pagina a questo, addirittura per il giornale è il titolo di prima pagina. Il magna magna di Ingroia, indagato per peculato. E va bene, direi che insomma la cosiddetta legge del contrappasso, almeno mediaticamente, si è abbattuta sull'ex procuratore, ora avvocato Ingroia. Oh, vi ricordate quando abbiamo parlato, invece, saltando su un tema di cronaca, della proposta dell'ANCI? Avevamo ospitato il presidente dell'ANCI, cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il sindaco di Bari, che aveva detto: proporremo l'arresto per i parcheggiatori abusivi. Ebbene, oggi Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, pagina 19, racconta che questo emendamento è pronto. Per i parcheggiatori abusivi di tutta Italia il vento tira da un'altra parte, potrebbero essere puniti con l'arresto fino a 3 anni, una sanzione molto più severa rispetto alla semplice multa di 3.101 euro oggi prevista dal codice. Una novità prevista da questo emendamento studiato dall'ANCI, ascoltata ora sul decreto legge per la sicurezza urbana. Nella proposta dei comuni c'è anche il raddoppio della multa, dunque 6.000 euro, e fino a 3 anni di carcere. Altro che, come avevano chiesto a Napoli, di essere assunti dal comune come coordinatori della sosta con tanto di stipendio e buoni pasto. Per i parcheggiatori abusivi si prevede nel futuro una linea dura. Questo almeno se passa questo emendamento. Va bene, vediamo all'articolo che mi fa della giornata per il secondo giorno consecutivo. Insomma, Alberto D'Argenio porta alla luce questa vicenda, portata alla luce già ieri da Repubblica in prima pagina, sulla questione dei rimborsi degli europarlamentari un po' bizzarri. Ricordate, ieri ci si è concentrati sugli italiani, come Lara Comi, che ha assunto la mamma come assistente, ha rilasciato una serie di interviste, parla anche oggi a Repubblica. Comunque oggi Repubblica torna sullo scandalo all'Unione Europea, rimborsi ai parlamentari, la bufera a Strasburgo, l'imbarazzo dei 5 Stelle, ma anche la collera di Berlusconi su Lara Comi, racconta Repubblica. Lara Comi che si difende, perché c'è una prerogativa, tutti quelli citati ieri si difendono: io non c'entro, ha sbagliato il commercialista, le contestazioni che mi fanno sono sbagliate, per carità, ognuno avrà ragione, registro questo. E infatti Lara Comi, intervistata da Monica Rubino: ho fino al 2009 il regolamento consentiva di ingaggiare la madre. Ma come le è venuto in mente? Ero giovane, avevo 26 anni, avevo bisogno di mia mamma, che tra l'altro, essendo insegnante di italiano, mi preparava i discorsi e mi seguiva l'agenda. Cioè, adesso sembra che la difesa sia quasi una un mettersi ulteriormente nei guai. Mi preparava i discorsi, si è messa in aspettativa non retribuita per aiutarmi, ha lavorato con me per un anno, ma poi la norma è cambiata, ma il commercialista non mi ha avvisato, quindi ha sbagliato lui, però io come personaggio pubblico mi assumo le responsabilità, ora sto restituendo tutto. Dice: scusi, ma come mai si è accorta di tutto nel 2016? È come con Equitalia, non sai di una irregolarità finché non ti arriva l'accertamento a casa. E questa Lara Comi. Poi c'è Antonio Panzeri che esordisce subito in maniera aggressiva: non accetto di essere associato a chi ha frodato. È inaccettabile, non c'è alcuna inchiesta in corso nei miei confronti per la richiesta di rimborso di 83.000 euro. Una vicenda di 12 anni fa, per questi servizi è stata pattuita, per i servizi che ho fatto, una cifra mensile che il Parlamento europeo devolveva direttamente all'associazione. Non ci sono viaggi non giustificati. Se qualcuno insiste nel sostenere il contrario, ci vedremo in tribunale. Quindi, come dire, reazione aggressiva di Panzeri. Poi c'è Borghezio che dice: giusti gli indennizzi al mio ex assistente Bastoni. Non è vietato essere consigliere comunale in Italia, dice Borghezio, e poi insomma contesta: non ho difese da fare, l'accertamento riguarda lui, che ora ha chiesto alla banca le ricevute dei pagamenti autostradali, documentazioni per comprovare la sua presenza a Strasburgo, cioè dimostreremo tutto. E poi c'è Nencini, Riccardo Nencini, vice ministro: indagini vaghe. Ho raggiunto con la prescrizione? Sì, ma le indagini sono durate a lungo, 15 anni sono state approssimative e quindi non mi sono potuto difendere nelle sedi opportune, ma lui è prescritto, doveva dare 455.000 euro. Mentre Daniela Aiuto, 5 Stelle, accusata di avere plagiato, nel senso di aver fatto delle ricerche prese da Wikipedia: sono parte lesa perché ho commissionato tutto a una società di consulenza e dunque se hanno plagiato sono loro che hanno sbagliato. Vabbè, di fatto che ognuno si difende e lo scandalo c'è all'Unione Europea. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, se non c'era lui c'era un altro. Non c'è dubbio. E allora, cari ascoltatori, vediamo che cosa ci propongono i giornali ancora sulla questione, per esempio, del reddito, le condizioni di vita, la lotta alla povertà. Oggi c'è un'intervista al ministro al lavoro Poletti, intervistato da Roberto Mania su Repubblica. Il titolo è molto una grossa promessa: così daremo un reddito alle famiglie più povere. Si parla di questa card prepagata da 400 euro mensili per 400.000 nuclei familiari con minori a carico, che è ciò che viene previsto dall'approvazione che ci sarà al Senato domani mattina del piano contro la povertà. E lo spiega Poletti, dice: si tratta complessivamente di 2 miliardi di euro circa, considerando anche le risorse europee. Con queste risorse siamo in grado di raggiungere un po' meno del 50% dei poveri. Non è una goccia nel mare, chiede Repubblica. È la prima volta che viene messa a bilancio un fondo destinato alla lotta contro la povertà. Non era mai successo, risponde il ministro. Soprattutto se si guarda l'intero territorio, noi abbiamo esteso a tutta Italia ciò che era stato introdotto dal governo Letta come sperimentazione in alcune grandi città. Perché si trovano 20 miliardi per le banche e non risorse per i poveri? Sono questioni molto diverse, non mi sembrano comparabili, risponde Poletti. Ad esempio, i soldi per il consolidamento del sistema bancario e la difesa dei risparmi sono investimenti temporanei che poi rientreranno. Sì, ma l'Alleanza contro la povertà sostiene che servono 7 miliardi, è così? Lo valuteremo, ci sono misure assistenziali che si sovrappongono. Quante famiglie riceveranno il sostegno? Dice Poletti, sulla base delle risorse disponibili, ipotizziamo circa 400.000 nuclei familiari con minori a carico, pari a 1.770.000 individui. 1.770.000 individui. Questo, ma come sarà? Sarà una carta di credito ricaricabile? È una delle cose da decidere, se quello o una prepagata. Questo annuncia Poletti a pagina 3 di Repubblica. Dall'altra parte, sul fronte manovra, riforme e soprattutto iniziative da intraprendere, il Messaggero racconta con Andrea Bassi e Luca Cifoni a pagina 9 che è in previsione l'ipotesi dell'aumento dell'IVA dal 10 al 13%, dunque l'IVA non del 22, ma quella ridotta, quella per energia, trasporti, farmaci, carne, pesce, alberghi, bar, ristoranti, cinema e teatri, tanto per intenderci. Il possibile aumento dal 10 al 13. L'operazione è questa, scrive al Messaggero, ne stanno discutendo al governo, rompere il tabù renziano dell'aumento dell'IVA. Nei ragionamenti tra Tesoro e Palazzo Chigi c'è anche questo, e la strada, va detto, è impervia. Già una volta Renzi ha stoppato Padoan, che voleva ritoccare l'imposta per accontentare la richiesta di Bruxelles di correggere i conti per 3,4 miliardi di euro. Stavolta però non si tratterebbe di un aumento secco, piuttosto di uno scambio, perché la si vede così: ogni euro di IVA in più andrebbe ad alleggerire il cuneo fiscale pagato dalle imprese e dai lavoratori. Del resto, questa sembra l'unica strada per dare un certo peso alla proposta lanciata dal premier Gentiloni di ridurre le imposte sul lavoro. E allora ecco che l'attenzione si concentra sull'incremento di 3 punti dell'aliquota ridotta del 10%, intermedia tra quella ordinaria del 22 e quella super ridotta del 4. L'ipotesi, portare dal 10 al 13% quest'IVA. Ipotesi di maggior gettito, per questo 7 miliardi di euro. Sarà fatto, per carità, è tutto in discussione. Ricordate che nei giorni scorsi si parlava anche di aumentare dal 22 al 24 e poi 25% l'anno prossimo l'IVA ordinaria. Vedremo che succede. In tutto l'inchiesta va avanti, l'inchiesta Consip, le vicende politiche. Il 15 marzo, dunque tra una settimana esatta, ci sarà la mozione del Movimento 5 Stelle, proposta dal Movimento 5 Stelle, contro il ministro per la sfiducia, il ministro dello sport Luca Lotti, indagato nell'inchiesta Consip per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento. I numeri, oggi il Corriere fa tutti i calcoli, grazie a se c'è l'astensione di Forza Italia, il sostegno del PD e anche di, diciamo, gli scissionisti del PD, i numeri sembrano proprio a favore di Luca Lotti e quindi del governo, non dovrebbe correre rischi. Certo, c'è la questione politica che incombe, anche le pressioni politiche, tutto quello che certo fanno dire a Renzi, retroscena della stampa: io vado avanti con determinazione, se qualcuno pensava di farmi calare la testa ha sbagliato di grosso. Così ripete i suoi, almeno in questa retroscena di Amedeo la mattina, Renzi. Tra l'altro oggi parla sul Foglio, lo fa con Annalisa Chirico, una persona che è molto vicina a Renzi, è l'avvocato Bianchi, uno che di solito parla poco e che è praticamente quell'avvocato, Alberto Bianchi, della Fondazione Open, la fondazione prima Big Bang, poi ribattezzata Open, la cassaforte di Matteo Renzi. E Bianchi, con Annalisa Chirico in prima del foglio, dice: ha presente il sillogismo della Lubianca, cioè il famoso quartier generale del KGB, il KGB russo? Ebbene, funziona così. In questo caso, tu sei nominato da Renzi in Open. Marroni, cioè l'amministratore delegato di Consip, è nominato da Renzi in Consip. Tu vieni nominato avvocato di Consip da Marroni, ergo tu fai gli interessi del nominante Renzi in Open e Consip. Anzi, in Consip anche quando ti occupi di Open e viceversa. Ecco, gli interrogatori degli oppositori al regime sovietico si svolgevano secondo analoghi sillogismi. La conclusione sta tutta nelle premesse. Le prove stanno a zero. Così si difende l'avvocato Bianchi e dice: applicano a me questo metodo Lubianca, no? Siccome Renzi mi ha messo lì e Marroni mi ha chiamato come avvocato di Consip, ecco, allora si salta la conclusione senza prove che io faccio gli interessi di Renzi e così via. Comunque fa una chiacchierata sul foglio l'avvocato del renzismo, interessante da leggere. Ma poi dove starà la verità? Meno male che c'è Mauro Meazza che ce la svela tutti i giorni. Buongiorno, alle 7.43, minuto più, minuto meno. Mauro. Buongiorno, buongiorno. Scusami, vado un po' di fretta perché stavo parlando con la California, con il mio frigorifero. Ottimo. Che, so che appunto c'è questo collegamento. È bella, allora volevo questa, risparmiare qualcosa anche TV sul, Samsung, sulla bolletta. Però se un'altra TV è un pasticcio. Che ne so. Senti, parliamo di cose serie, Alessandro. Innanzitutto, sì, oggi con il Sole 24 Ore, 16 pagine dedicate al terzo settore, onlus, associazioni. Oh, c'è un cambio di regole in corso molto importante, allora il riepilogo oggi con il Sole 24 Ore. E poi ci sono un paio di parole nuove da imparare. Hai la penna? Eccole qua. Di mano? Eccole qua. Oh, bravissimo. Allora segna Isa. Isa, una Isa, mia amica. Non è Isa il nome di una signora, no? Salutiamo naturalmente, sì, tutte le donne, la festa della donna, ma significa indice sintetico di affidabilità. Oh. Ed è la nuova veste degli studi di settore. Ok, tu sei a zero. Su, so che tu magari sei un po' refrattario a questa notizia, ma sappi che ci sono milioni di contribuenti che aspettano questo cambiamento degli studi di settore. Aspettano Lisa. È cominciato, aspettano ISA. Allora ISA, gli indici sintetici stanno arrivando, riferiamo tutto su norme e tributi che tu leggerai come ogni giorno, religiosamente. L'altra parola da imparare invece è Sukuk, con 2K, perché se tu leggessi avidamente Finanza... Siamo alla, dopo, domani il sanscrito, oggi per l'arabo la lezione è gratuita, domani sul giapponese vedremo, Sukuk, ecco. Mi devo preparare, adesso vedo se mi collego via Freezer anche col Giappone. Sukuk, scherzi a parte, se tu leggessi come dovresti fare Finanza, le pagine di Finanza, avidamente, sapresti che è il nome per il BTP islamico, cioè è in preparazione, è in preparazione un'emissione di titoli del nostro debito che rispetta i dettami appunto della finanza islamica, ma ne riferiamo come si deve nelle pagine di Finanza. Oh, e poi prepariamoci per domani perché dobbiamo fare gli auguri al quantitative easing. Oh. Adesso io la butto un po' in celia, mi perdoneranno gli ascoltatori, ma effettivamente domani sono 2 anni dal sostegno della BCE. Abbiamo una pagina dedicata, nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, appunto ai risultati di questo quantitative easing, che potrebbe cambiare perché, come sai, l'inflazione sta un pochino risalendo. Che succederà? Leggi il Sole 24 Ore e saprai. Caro Alessandro, care ascoltatrici, traffico! Alessandro Milan, il Real Madrid delle informazioni. No, poveri napoletani, tifosi, che dai, questo è un colpo basso. Allora, l'apertura della stampa è dedicata all'Ungheria, che da sempre ha una politica molto dura nei confronti degli immigrati con il premier Orban, e si sa. Bene, il Parlamento ungherese ha dato il via libera alla legge che prevede la detenzione, dunque il carcere, dei richiedenti asilo. Tutti i migranti che presenteranno una domanda di protezione internazionale saranno rinchiusi nei container al confine. Ma addirittura questa parola, nei container, cioè come delle bestie, mi sembra Comunque, la norma nuova avrà effetto addirittura retroattivo. Ci sono poi i dettagli di Marco Bresolin a pagina 2, lo stop ai migranti del premier ungherese Viktor Orban, che dice: ci tengono sotto assedio le persone che arrivano da noi, non vogliono vivere secondo la nostra cultura, i nostri usi, l'immigrazione è il cavallo di Troia del terrorismo. E quindi questo dice Orban, e il via libera alla detenzione degli immigrati. Per la verità è un po' il consiglio anche che l'Unione Europea aveva dato, cioè dotarsi di alcuni strumenti, visto che bisognerebbe espellere 1 milione di persone che non hanno diritto e sono venute qui in questi anni, dotarsi anche di strumenti che nel frattempo potrebbe essere anche prevista la detenzione per loro. Certo, in Ungheria vanno sempre, come dire, molto molto avanti e in fretta. Oggi l'Unità, il Manifesto celebrano l'8 marzo, lo sciopero anche, oggi c'è sciopero non solo nazionale, è uno sciopero globale, è uno sciopero in 40 e più paesi, partito dall'Argentina, secondo lo slogan, con lo slogan "non una di meno". È uno sciopero quindi che protesta contro i femminicidi, le violenze nei confronti delle donne, anche gli omicidi proprio nei confronti delle donne. Oggi infatti il Manifesto intervista con Geraldina Colotti Veronica Gago, fra le organizzatrici del movimento argentino Ni Una Menos, cioè non una di meno, che racconta come dall'Argentina sia partita questa ondata di sciopero che quest'anno coinvolge anche l'Italia, con le solite polemiche. Ne parleremo anche noi, è giusto, non è giusto, ne discuteremo dalle 8:15. Se rimaniamo all'estero, vi segnalo che arriva la Trump Care dopo l'Obama Care, cioè il sistema sanitario secondo Obama. Ecco come racconta Marco Valsania sul Sole 24 Ore a pagina 8 che si muove la Trump Care, cioè la controriforma repubblicana nella sanità invocata da Donald Trump per spazzare via l'Obama Care. Ha debuttato in Congresso, è un piano che scommette tutto su nuovi crediti d'imposta calcolati per età, reddito, volti a incentivare l'acquisto di polizze mediche sul libero mercato, ma è un sistema che, privo di stime su costi e previsioni sull'impatto nell'assistenza, dovrà superare fin da subito seri ostacoli e polemiche per trasformarsi da promessa elettorale in legge, o ancor più nel meraviglioso successo ieri pronosticato su Twitter dal presidente. Anche il Corriere della Sera dedica una pagina a questo: via i pilastri della riforma Obama nella prima bozza della Trump Care che si muove in America. Se rimaniamo sulla salute e sulla cronaca, guardate, ci sono dei titoli, solo leggere i titoli di questa inchiesta che riguarda Napoli, come dire, per carità, dobbiamo essere garantisti e quindi siamo garantisti, va provato tutto, ma solo leggere il titolo di alcuni giornali, solo i titoli mettono i brividi. Mazzette sui tumori, 7 arresti a Napoli. Questo pagina 17 del Messaggero. Primario e dirigente dell'Istituto Pascale, secondo l'accusa, lucravano sugli apparecchi e le forniture di medicinali anticancro. Aggiravano le procedure per i bandi di gara, procedevano a trattativa privata, le società gonfiavano i prezzi d'acquisto, insomma, classico schema, se provato. Ma eccolo qua, il primario e la moglie che lucravano sui malati, anche il titolo del Fatto Quotidiano. Rubavano sulle forniture per i malati terminali, questo è il titolo di Libero. Insomma, come vedete, ce n'è davvero per tutti i gusti, per rabbrividire. Il calcio, vi segnalo, dal calcio giocato, purtroppo per il Napoli davvero non è servito fare una ottima partita, almeno per metà, ma poi si è imposto il Real Madrid, quindi Napoli che mal di testa, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, col Napoli che esce dalla Champions League. Però c'è anche il calcio non giocato, inchieste sugli ultra dell'Atalanta, spaccio e droga, gli scontri, gli ultra dell'Atalanta, vari arresti, questo titolano i vari giornali, non solo di sport. ma anche nella cronaca. E poi che succede a un Agnelli, Andrea Agnelli, 41 anni, lui che ha smentito su Twitter dicendo non ho mai incontrato mafiosi, ma l'antimafia, la commissione antimafia, raccontano tutti i giornali, pare che voglia ascoltare i vertici della Juve. Perché secondo il procuratore della Federcalcio Giuseppe Pecoraro ci sarebbero stati dei contatti tra il presidente della Juve e Rocco Dominello, ex ultra presunto appartenente a una cosca calabrese. Che succede? Non lo so, tutti i giornali ne parlano. Il procuratore della Federcalcio, Agnelli e i boss, contatti per i biglietti. Questo per esempio è il titolo del giorno. Vedremo, ma intanto la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina intera di intervista a Imma Battaglia, che racconta il bacio all'Isola dei Famosi con Eva Grimaldi e la loro storia. Ma chi se ne frega!